Claudia, Claudia, sapeva, sapeva benissimo cosa fare. Abbracciarsi forte, forte il petto e poi ricominciare. A pensare al suo cammino su quel cuscino, faticando, faticando con le sue gambe, le sue gambe. Affidarsi prepotente al fatto, all'istinto che gliene avrebbe riservate ancora tante. Affidarsi alle scelte o affidarsi alle stelle, solo quelle. Le ultime dicono, quelle mai prese sono pur sempre scelte. Chi l'ha detto? Che correndo arriveresti primo, che anche Dio non tema il destino. Scambio segreti col mio cuscino, perché chi l'ha detto che abbracciarsi fa male, che fermarsi non è continuare, quando il cuore ti dice sei sola, sei sola, sei sola. In quel momento Claudia, Claudia sapeva, sapeva benissimo cosa fare. Aspettare ancora l'alba di una vita da iniziare. Cantare i blues non mi aiuterà più. Se il cielo è coperto, ne badare ai bisbigli o mille consigli. Per predire il tempo, devi farlo da sola. Spazzare il maltempo, non basterà il vento. Quando la pioggia non viene da sopra, cade da sotto il tuo stesso ombrello. E già da bambina non temevo il buio. A scuola la sola scontrarsi col bullo. Avere tutto nel mio pugno dipende. Se capisci che non vale niente e non servirà a cambiare i piani, ma imparare ad aprire le mani. Se i legami sono solo nodi, sentirsi completi non è colmare i vuoti. Chi l'ha detto che abbracciarsi fa male, che fermarsi non è continuare, quando il cuore ti dice sei sola, sei sola, sei sola, sei sola. E guarda sempre dove vai e guarda sempre solo dritto. E quando ancora non saprei, tu ascolta solo chi ha ascoltato. Lasciarsi andare, ricominciare, trovarsi accanto il traguardo. Isolarsi non farà male, se ero più sola dormendo al tuo fianco. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Abbracciarsi fa male, che fermarsi non è continuare, quando il cuore ti dice sei sola, sei sola, sei sola, sei sola. Chi ha detto che isolarsi fa male, quanto serva per dimenticare, che il dolore ti dice non ora, non ora, non ora. Abbracciarsi fa male, che fermarsi non è continuare, quando il cuore ti dice sei sola, sei sola, sei sola.